mi ha coricato del tutto, però mi ha dato una bella scossa, una bella ma bella scossa. Mi ha, come si dice, sordito quest'anno. Ma vabbè, come bisognava fasciuinciua. Vediamo un po', c'è qualcuno che vuole entrare? Non va nessuno. Ma era un esempio in questa banda cittadina che sono tutti due, tu. E non va mai nessuno, cosa fa? Tutti gli apparati sono. Poi oggi anche sabato sono tutti in giro a fare spese. Poi anche bella giornata. Io invece sono qua, a letto, e non posso uscire. Ma io sono uscito, qua c'è freddino, Qua altri c'è freddino, parecchio freddino ti dico. Non è trascurabile. C'è il sole fuori, però parlano di bella giornata, ha un freddo che fa tremare l'asino, freddo, c'è freddo, capito? Però voi che le fai a sapere qua? Ce l'ha come tenis su tempo con questo. E tutti indaffarati senza far niente, tutti andaggiando saranno, chi a fare shopping, chi qui, chi là, chi è con la fidanzatina, chi gira a manca, chi gira a destra, e siamo rimasti lì. Tu che sei a letto, io riparatore che corro da una parte all'altra, rientro, vado, esco, faccio, capito? Oh Iulia, ma anche di sabato mi tocca lavorare. Ehi, l'importante è lavorare, dai. Quando si lavora va tutto bene. Vuol dire che va tutto bene quando si lavora, mare quando non viene. Avrei comunque gradito un posto fisso per poter fare il parassita statale, capito? Allungare la mano e ritirare il 27 anch'io, come fanno quegli altri, capito? Perché in mezzo a loro ci sono anche quelli che non lavorano e vedo che i soldi ce li hanno sempre. Purtroppo l'autonomo è fruttato, Pierpa, io con tutto il rispetto verso chi lavora che è sotto datore, però vedi, a un certo punto viene fuori la stanchezza degli anni, Pierpa, e 25 anni sono duri da digerire. Vabbè, purtroppo non ce n'è, bisogna accontentarsi di quello che si fa, del poco che si fa, perché siamo tempi duri, troppo tempi duri sono, quindi quello che si deve fare si fa, pazienza, purtroppo i posti così sono per pochi. Adesso poi sei andato in mortadella. Brutto sorcio rosso puzzolente, meno male che è sparito, meno male che è sparito quello proprio di uomo, ma per carità, ma guarda, non ne parliamo, non vorrei sollevare una polemica, ti dico solo per fa che quell'uomo, no, non ha capito niente, proprio perché è un semplice tipo di ucolatto. È un semplice pigliato, non ha capito nulla, purtroppo è così. Lo so, purtroppo ce l'abbiamo dovuto avere per 2 anni, e non si sa se ce l'abbiamo levato intorno, non si sa, adesso magari c'è un rimetto. Se fa una cosa così, allora il popolo italiano lo lincia, perché tutto da vedere, però fondamentalmente è escluso, oramai è dimenticato. No, Stefano, ma non auguriamolo neanche per scherzo, capito? Gente così deve rimanere completamente fuori dal sistema, dai sistemi politici, politica fino a un certo punto, e questo danneggia quello che è l'economia delle persone italiane, ma stiamo scherzando. Ma non vedi che siamo diventati morti di fame? Lo so, però se si è tolto di torno, lo vedremo, finché non lo vedo non ci credo ormai. Come dici tu, no? San Tommaso, vedere per credere, però... Daniele, ci sei? Viene dal popolo, capisci per fa? Ormai siamo abituati a vedere anche le cose strane, e chi lo sa se è realmente così, è stato talmente insistente e durativo che ormai questo, bisogna vedere per credere. Sì, ma sono d'accordo con te, sono perfettamente d'accordo con te, però fondamentalmente non ci sarà più una legislatura della sinistra, questa è stata l'ultima legislatura della sinistra. Che sia ben chiaro, i fatti accaduti e per quello che manifesto da parte appunto delle persone che hanno subito questi obbrobri da questo governo, è finita. Oramai la sinistra è morta, questa è stata l'ultima legislatura della sinistra, ma addirittura adesso si andrà verso la direzione di due partiti, due unici partiti, capisci? Come fanno in America, laburisti e conservatori, no? Dici che sia così? Ma non lo so, non lo so, sinceramente non so. In questo momento è un po' difficile da stabilire. Io spero che sia così, come dici, ma ho seri dubbi, non lo so. No, fatelo dire. Guarda, io faccio 25 anni di paratore, no? E conosco gli andazzi delle persone. Sono come gli esisti, no? Quelli che sono jazz in America, per la strada, quindi vedo le persone, sento i loro discorsi, cosa provano, cosa hanno nelle case, soprattutto, no? Io osservo attentamente queste cose per poi trarre le mie conclusioni. Io ho tratto la conclusione che la sinistra è mal vista pure dallo stesso che aveva prima in alto la bandiera, addirittura non lo vogliono proprio più, non lo vogliono più, si sono resi conto che c'è bisogno di un'innovazione, abbiamo bisogno di una nuova politica, abbiamo bisogno di un nuovo modo di vedere, che tutto quanto quello che era 40 anni fa è passato. Ormai fare politica come la facevano 40 anni fa è essere scemi in tempo di pace, scemi di guerra in tempo di pace, capisci che fa? Ecco che le persone hanno bisogno di un cambiamento, e fatelo dire che si sta radicando questa usanza, il cambiamento per l'avvenire. C'è ragione, no, sempre quello, io ho sentito delle persone che a suo tempo hanno votato a sinistra e dopo i due mesi si stavano rosicchiando le dita e si stavano stramaledicendo da soli. Poteva migliorare, no? Purtroppo la sinistra l'ha sempre pensata a quella maniera e quindi non c'è niente da fare, e sempre lo sarà, anche se non lo so, dovessero malauguratamente rigovernare, sarà sempre così, mica cambierà mai quello. Qualsiasi movimento faccia la sinistra lo farà sempre nella stessa direzione. È un vecchio sistema, la vecchia politica, le orazioni in piazza, ululare alla luna, perché credendo che essere ascoltati dalla luna sia positivo, hanno fatto un sacco di cose che hanno letteralmente, matematicamente danneggiato il cittadino, no? Messo in croce. Perché questo? Perché la politica è vecchia, gli studi di mercato casomai li potrà fare Silvio Berlusconi, perché è già un imprenditore di più grande fama, ma non è che lo dico perché io sono una sfissata di Silvio, no, assolutissimamente, perché è una persona che ha dato un sacco di lavoro e che credo che comunque se gestisce bene l'Italia anche noi ne avremo giovamento. Perché esserci un ricco e esserci un giro di lavoro, anche se i ricchi si rubano la loro parte, fondamentalmente a noi che ci interessa? Perché poi il popolo rispecchia quello che è la politica del governo, e cioè governo ricco e ladro, popolo ricco e ladro, governo povero, demente, governo come si dice, sfasciatore di sistemi lavorativi, il popolo rispecchia quello che è il governo, io l'ho sempre detto. Infatti, nota bene, nelle politiche estere come siamo andati a finire, per il loro sfascio, come siamo andati a finire? Non hanno saputo fare le politiche estere. Adesso siamo malvisti anche fuori. Perché questo? Perché? Perché quando un padre di famiglia è maleducato, i figli nascono maleducati. Questo è il problema politico odierno. c'è bisogno di una nuova politica, c'è bisogno di un nuovo sistema che fondamentalmente rimetta su quello che è l'avvenire. Non dobbiamo pensare solo che adesso è successo e quindi continuiamo a combattere nella strada dell'insuccesso, no, una nuova politica, nuove riforme, nuovi sistemi per l'avvenire. Siamo nel 2007, è cambiato tutto, i giovani sono diversi, non hanno più la bandiera in mano, quindi il giovane oggi non ne vuole sentire di politica. L'amministrazione deve essere fatta da chi di competenza, capisci? E quindi qui deve cambiare radicalmente questa cosa qua. Lo so, c'hai ragione, Gianni, c'hai ragione, purtroppo, quindi stiamo a vedere che cosa succede, perché è la sua risposta al telefono. Vai, fa, vediamo un po'. C'è qualcuno che vuole entrare? Mi raccolgo, Basta. Ha bisogno. E sabino. Alano intra nessuno. Non c'è nessuno. Niente nessuno. Oh Gianni, devo lasciare un attimo che sta arrivando la dottoressa a visitarmi. Riprendo dopo, dai. E fai fighter fa, non preoccupare. Buona vista, buon tutto, ci sentiamo dopo. Allora, c'è qualcuno che vuole entrare? Ciao Gianni. Oh, buongiorno, chi è? Chi è? Rita. E perché sei così? E sciuga. Ti ha preso a fondo anche a te? Questa voce. Ai, cara mia. Se tu non ti curi lì, sei disastrata, eh? Boh. Ascolta come ti ha preso. Mi ricordo, è stato male. Le convulsioni l'hanno ricoverato, stava morendo. Io ho anche le bambine con la febbre. Ehi, ti sto dicendo che mio nipote stava morendo. Hanno corso padre e madre, lì ho saputo due giorni dopo, non me ne hanno detto. Ha iniziato a tremare, è andato, si è irrigidito il bambino. Meno male loro sono gli infermieri professionali, l'hanno tutto massaggiato e si è ripreso. Ma era già lì che andava, Cavolo, ieri sono andata a prendere la bambina da scuola. Diceva la febbre a 39 e mezzo. Oh signore. E così gli ha fatto a Flavio, mio nipote. Praticamente le è salita la febbre, no? Prima sembrava leggera così. Di colpo si è portata a 41, mi pare. Ma proprio di colpo, Lì allora ho iniziato appunto a massaggiarlo, eccetera, sono riusciti a portarlo in rianimazione perché poi il padre lavora in rianimazione. Hanno messo lì e sono riuscito a salvarlo. Adesso l'ho visto, ho detto con cos'hai fai e Dio. Mi fa dice febbre, Dio febbre, ha avuto febbre fatica. Poverino, così loro sono sempre da una cosa all'altra. No, a me lo so che cosa mi ha fatto. Allora, prima ho visto un sogno brutto l'altra notte, si vede che era febbre su in piena notte. La mattina mi sono svegliato che ero stordito. E questi giorni avevo, e ce l'ho ancora, tutti i tendini della gamba destra nel ginocchio, tutti a nodi, proprio, come fossero stati presi, sembra che abbia preso persiano il ginocchio. Piano piano mi si sta sciogliendo questi giorni, ma ti dico che sto vedendo le stelle, è dolorosissimo, probabilmente c'era, adesso si è aggravato, ma pare che appunto qualcosa adesso sto riuscendo a sentire, perché poi era... quasi come ci fosse un chiodo caldo conficcato nelle carni. Copre, come senti? Sono arrivata ieri sera e poi niente, mi è mancata via la voce. Mondi! Aspetta! Mondi, anche questo è vero, Anche questo è vero, però questo fronte è brutta, non sto scherzando, Per poco non è morto mio nipote. L'hanno dovuto portare a tutta birra in animazione, Mondi. Se senti Rita è crepata, mi ridi, avanti se ti ascolta Mondino. Ciao Mondi, buongiorno. A tutti ci ha beccato questa influenza, Ok, Mondi, ti ringrazio per i saluti. Io mio, sono uscito, c'è freddo, c'è un freddo cane intanto, no? Prima di tutto, c'è il sole ma c'è un freddo cane. In effetti non so come scacciarmelo di dosso. stasera devo installare un'antenna e ho paura, l'ho presa questa mattina infatti, poi me ne sono rientrato a casa, perché è sempre con questi problemi di questo ginocchio, poi dopo mangiato vedo un po' di andare lì e arrangiarmi, e da voi freddo c'è lì? Già. Ho detto da voi freddo c'è? Se vuoi a dirti lo so, stare anche fuori, mi ha preso un poco fa la roba qua fuori, e sono sempre dentro con i bambini. No, ma qui sta facendo proprio freddo. Un freddo che ti entra nelle ossa, la gente ha il cappotto da non concluso il fuoco. Sai, vabbè che, insomma, è gennaio, comprendo, no? Però queste botte di questi virus qua non è normale. E ne stanno arrivando di malattie, questa gente che sta comunitaria, così le portano sino a casa, nei cosi, come si dice, i viaggi che fanno, portano di tutto. La Sardegna è infestata, da questa gente qua. Infatti. No, ma vedo che stai fuori, evidentemente non c'è tutto questo freddo. No, non c'entrano, e vabbè. Sì, perché lì non è ventilato come qua. Non è ventilato come qua, qui è aperto, e a 360 gradi. Siamo una bella collinetta. No, qua non ce n'è il vento, niente. Lì anche il vento lì se ne scappa, ha paura di girare in mezzo ai vicoletti. Il vento, che ci fa il vento lì? Il vento va dove c'è libertà, dove c'è altezza, dove... Dove lì, non è entrato lì quei punti, o... Sai che cosa? A scappigliare quel Doberman che c'è all'ingresso. No, ma qua quando tocca il vento già è bello forte che qua. Evidentemente si apre molto in una direzione. Solo in una direzione, qui è tutto l'anno, manca a destra, a sinistra, a centro, stop, anche dal cielo, dall'alto non scende. E tu resta, io. Adesso appena un langurino, sto ingrassando un po', Già si vede. Sto ingrassando, appena di pancia, forse, 3 kg in più. Capito. Peccato però, peccato, era un giovane gagliardo, snello, magro, capito, tutto ossa, non c'era mancata né di carne. E sta fa cosa di vedi? È magro di lui, questa cosa bene, ma molto più magro di lui, era verde bisogno come colore. Sapete che prima, 20 anni fa fumavo questa sigaretta, ho buttato via tutto, poi di colpo da qualche anno in qua, come ho passato la quarantina, adesso ho 40 anni e un mese, quasi un mese da volevo dire, e non lo so, queste maniglie qua, non so se sono le maniglie di una valigia, un po' di pancia. Allucinante. Sono cose che comunque sono sempre belle ragazze, però insomma, diciamo che non è antistetico avere così, più che altro un po' mi gonfia, capito? La faccia è brutta. Non è una cosa bella, vabbè, non è una faccia da pusillani, è una pancetta che ci sta pure bene, diciamo che è una piccola riserva, però non l'ho mai avuta, capito? Non è da me. E basta, tu immagina che aspettano quella pancia. Mamma mia, Hai visto che anche tu già sei leggermente panciutella. Sì, io lo credo. Ma non è brutto, guarda, non sfriggia quando è un pochino, così. Però non deve andare oltre. Io ho sempre avuto un fisico molto... Il metabolismo è molto accelerato, no? Non mangio molto, ultimamente ho giusto il tanto che mi serve, però e di nuovo mi guarda, ti dico che corro da una parte all'altra come un matto la maggior parte dei giorni. Non lo so, deve essere questa mia moglie pugliese che mi ha viziato con questi piatti buoni. Sicuramente. Io come ho avuto due gambe vicine e poi non ho fatto nessun movimento. Eccola qua, Quella è la nonna dello sciai. Quando l'hai gravidanza tu tende sempre a rilassare un attimino. Rassicurarsi ci vuole del tempo. Io ho conosciuto un'amica mia che era una silhouette. Da quando ha avuto due figli si è scacciata. L'ho vista l'altro giorno, ho detto non mi salutare più. Cioè perché? Perché ho detto sembra una vecchia strega. Poi c'era mia cognata che era, mi sembra che pesava 45 kg, adesso ne pesa 82, cioè dopo che ha avuto due figli, già granditi, uno ha 9 anni e l'altro mi sembra 7. E beh, adesso ne pesa 80, io gli ho detto mamma mia. Bello. Però no, la pancia comunque non fa parte della muscolatura sicuramente, no, non c'è dubbio, solo che come si dice, non so, secondo me è anche l'età, perché la maggior parte vedo le persone degli uomini, no? Che dopo 40 anni, gente che lavora come una storia, non si dice, ce n'è uno che si sta lievitando giorno dopo giorno, questo lavoro è un casino. Ma veramente vuoi tutti i capelli, puoi fare la sera di tutto. Ma che c'è? Ogni volta che lo vedo dopo 2-3 minuti mi dico sempre, ma che cazzo è questa roba qua? Pronto? Chi è? Anzi pronto. Minore, chi sei tu? Chi è? Pronto? Ciao Marco. Buongiorno piccolino. Chi sei? Io sono Giovanni, tu chi sei? Marcolino. Ciao Samuel. Chi sei? Ciao Samuel, figlio di Benito. Ah, lui è. Ciao piccolino topolino bellissimo. Cosa fai qui andaggiando in banda cittadina? Minore. Tanto in me, Cubar. Va benissimo, perché è in destra, non preso, 40 birra, qui. Eia. Non preso l'altra, Eia. Non preso, io. Così è la vita. La cosa che più mi dispiace della vita è una sola vita. È bellissima, no? Perché la vivi intensamente, lavori, tutte queste cose, si fanno, una persona si fa una cultura. Perché devo morire? Quello è il problema. Io mi sono sempre chiesto, non c'è una logica, guarda, è fuori dalla logica, no, la morte, è fuori dalla logica, perché tronca completamente, quando vengono, completamente l'esistenza di una persona, di tutte le cose che gli ruotano attorno, le tronca. Io vedo la morte come una specie di motosega. Io non la vedo mai con la falce, la vedo con la motosega sempre. Andiamo avanti. Che bello che sei. Sei simpaticissimo, lo sai. E vabbè, comunque rimarrai sempre un pezzo di salame, calzato e vestito. Capisci? Sei una persona indecorosa, ignorante o idiota. Ehi, già lo so chi sei. Capito, sei, hai un occhio mezzo guasto, comunque sei guasto di persona pure. Vai a creare, vai, Macu. Tu sei stupido, eri stupido a scuola e sei stupido anche alla radio. Vai a creare, vai. Tu pensi sempre che gli altri non ti riconoscono. Vai, handicappato. Queste cose in radio le hai sempre fatte. Io dico, ma non ti vergogni, fatta persona adulta a fare queste stupidaggini, vabbè che un pagliaccio, un jolly, rimarrà sempre ciondolino tutta la vita. Vedi, ti spiego, no? Siccome ne scendeva l'ernia quella baldracca di tua nonna, e quella baldracca di tua madre, ti ha fatto nascere in un angolo di strada, ne sei caduto a testa in giù, figlio mio abbandonato. e fai comunque ridere la frequenza, fai ridere, tu sei una vergogna per la radio, ma buttala via quella scatola di tonno che non la sai usare. Io sono sicuro che quando senti le voci da dentro, pensi sempre che nascono dentro le voci, ignorante. Povero uomo, come sei ridotto male, come ti ha castigato la natura, veramente. Manco il Signore si può illuminare con un faro da un filo fatto in faccia. Sì, malconcio, te l'ho detto, neanche Dio ti vuole. Neanche Dio ti vuole, fai vomitare i porci, veramente. Sei una persona stupida, obbrobbiosa, frizzolente, idiota, ignorante, effimero, maleducato, insensibile e stupido. Sì, te lo sto dicendo. Se vuoi te ne dico altre quattro dolci. Ignorante che non sei altro. Non lascialo perdere, ti dico. Sì, ma non mi interessa, Nadine. È stupido e basta. Morirà stupido perché nel suo albero genealogico ci sono le radici marce, capisci? E ne è uscito lui, a un certo punto del tronco lui ne è caduto giù perché, ma come fa a reggere un albero che ha le radici marce? Poveretto, già lo so che io conosco tutte le portanti, tutte, ce n'è uno da fuori Sassari, uno che è nato in una certa parte di Sassari, un altro che ora sta si è ritirato, ma questo è in modo particolare, tu non l'hai capito che, no? Questo è un tipo che a scuola, no, non capiva un affanculo, capisce? Ed è geloso di tutte le persone che sente, queste tra virgolette. Comunque, tronchiamola qua, riprendi. Vabbè. Tanto c'è qualcuno. Ma non è qualcuno, è una cosa. Questo è un essere al mondo. Ti copre quasi? Per forza quasi mi copre, te lo credo. È a Sassari, Andes. Tratta di prova che fa, capisci? Però sarà sempre un codardo, perché è la persona che deve dire qualcosa, salta fuori e parla. Allora sì, scendo a Sassari, lo prendo a calci nel culo, e vedi che da nano lo sollevo. Ehi, però parla, di chi sei? Se tu parli di chi sei, guarda, io mi presento, scendo da te, io sono sicuro che le sirene dell'ambulanza ne mettono sì. Adesso. Handicappato, povero chi ha fianco a te, povero chi ti sopporta. Mamma mia, che personaggio. Sei un cesso di uomo, stupido, brutto come persona e brutto di fatti. Sì, sei brutto, capito. Hai capito quello che ti sto dicendo, no? Capisci? Non è servivi a scuola e non è servivi neanche qua, non voglio neanche dire il titolo che andavi che ormai è chiuso, che sembra più un angolo, l'angolo dei drogati che una scuola. Hai capito? Non voglio fare il tuo nome proprio perché non si fa nemmeno in radio. Però comunque, come riguardo a scuola, sei guasto in radio. Guarda che si sente chi sei, Si sente chi sei. Con questo parlato di handicappato, anche la pernacchia è handicappata. Poveretto, poveretto. Se vengo lì, grazie a quei trasmettitori te li fico nel cervello, te li fico, imbecille. Te le faccio ingoiare io le schede quartate. Vai a cagare, vai. Mondezza. Non giocarci molto con me. Su. A Gabriele su, e senza tanto la chinotte. Non mi leo la macchina e te li tratto a stufo, te li tratto dai Domodua. Nano miserabile. Nano miserabile. Miserabile, nano miserabile. Tua moglie a sopportarti sta facendo fatica da tempo, capito? Le corna non te le mette perché ti stufa di te. Perché ci sei tu che sei già cornuto, adesso stai arrancando con le corna, il rumore è quello. Continua a arrancare con le corna, fammele sentire. Vedi, vedi come ti sentono bene le corna. Le budella che se ne scendono in bocca al gatto, a modo che lo possa inseguire senza ritornartelo. Alame, idiota, imbecille, stupido, cretino, handicappato, fatiscente, bisoletto, non fai ridere nessuno. Vai a cagare, gioca tra schiaffi, vai. Mondezza, mondezza, amico. adesso che hanno acceso l'incendiatore di Macchiarese, sai, buttati ci dentro, se me l'ha mandato di Napoli, là. Tu lo scanto dal napoletano e più di poco, tu sei neanche un saccarese decente, tu sei un saccarese indecente. Poveraccio, cazzo, avevano ragione i professori a scuola, che riguardo. Iulia. Non ce ne da fa, quando uno nasce così. Così è bo. Sì, no, rimarrà così, no. Non lo cambia nessuno. Sono dei tipi fantastici che entrano a fare la terna chiesa perché non trovano modo di poterti dire che loro sono inferiori, allora lo manifestano sui germani, in famiglia. Capisci? È sempre un modo come un altro di sfogarsi della propria inferiorità. Ma sarebbe più bello e più divertente se entrasse, così almeno mi vedo tutti i colori. Però questa è la radio. Sì, che non mi sento io. Questo? Tua mamma? Tutti dimmi. Giova. Io? Io me ne frega. Guarda, ti posso dire una cosa, sinceramente, già lo sa. Io sono una persona che non ha nessun problema. Sono alla mano con tutti, sono in mezzo alla gente, vivo tranquillamente, ho una forte personalità della quale mi è diventato orgoglioso. Quindi non vedo perché mi dovrei offendere per un bardotto che fa la pernacchia. Ma va là. Quella persona che mi stavi dicendo? Sì, sì, sì. È lui. Tu dice no, mio cognato deve entrare in internet, no? Con il cellulare. Come mai non lo fa entrare? Oh già mi sento. Quindi, questo qui in modo particolare, no? Quando era a scuola, e per carità. Hanno fatto qui. Già, mi hai sentito quello che ho chiesto poco fa? No, non ti ripeto. Ho detto, mio cognato deve entrare in internet col cellulare, però non riesce a entrare. Allora, ha collegato il cavetto USB? Non lo so, lui mi dice che dipende dal telefono, mi hanno detto. Perfetto. Il telefono cos'è? Una porta infrarossi? Dovete mettere vicino per la comunicazione internet oppure ha collegato il cavetto USB? Cavetto USB. Ok. Allora, se ha collegato il cavetto USB, innanzitutto bisogna imboccare il disco software e vedere un pochino com'è la configurazione. Cercarsi la porta, appunto, la trova in modo automatico, specialmente XP è abbastanza versatile. Trova in modo automatico e quindi si deve creare la connessione, quindi crea nuova connessione, capito? Però lui già ha vista Windows Vista. Perfetto, anche con Vista si può fare, tanto sarà aperto come programma, non c'è problema. Si conosce al volo, non c'è un breve dubbio. Anzi, se l'internet di Vista è ancora migliore. Ah, così è. Proprio più, allora, io col mio cellulare entro direttamente, non in internet, con il mio cellulare, lui proprio non riesce a entrare, lo sai? Non entra, perché Vista deve andare nei parametri di configurazione del ricevitore di cellulare, un ricevitore di duplex di cellulare, no? Ecco, e in pratica bisogna entrare nel software del cellulare prima, dopo bisogna configurarlo in base all'esigenza, cioè creare una connessione. Dal pannello di controllo crea nuova connessione e vi presente, cioè Vista, tutte le cartelle in Vista appunto. Certo, io mi dico se riesce, perché proprio ieri hanno provato e non c'è riuscito. Ma non ci riesce così, non ci riesce, l'operazione la deve fare dal pannello di controllo, non crea nuova connessione, anche perché ci sono delle cose abilitate da opzioni di internet che vanno appunto, cioè non abilitate che vanno abilitate. E comunque quando farà la nuova connessione, ricordi questo, gli chiederà una password, di non importarla, perché quella può essere una finestra spia, perché appunto circola in rete, scusa. Già ce la fa. Se lui crea la nuova connessione ce la fa, gliela abilita la stessa macchina. Ascolta, ma non è che lui è WebTS, no? Non è che deve avere scritto tutte quante le cose nel cellulare per poter entrare, perché lui proprio senza attaccarlo al computer non riesce a entrare lo stesso in internet. Sì, perché gli manca la connettività. Prima deve fare abilitazione con la connettività, e cioè cosa fanno loro? Praticamente si chiama il numero di servizio, no? Loro ti dicono se non ce la fai a impostarlo automaticamente perché c'è una centralina con dei dati registrati. Loro ti dicono cosa devi fare, ti danno un numero, quel numero di abilitazione. Ah ecco, allora dopo glielo chiamo, la chiamo, glielo dico. Sì, e beh, se non l'abita, scusa. Allora, ti spiego una cosa, se prendo un filo USB e lo collego al cane del Cagliari, con la sciarpa del Cagliari, non potrà mai ricevere e trasmettere dati internet. Siccome io l'ho fatto, gliel'ho detto, gli ho detto guarda che devi chiamare a loro, al centro, io vabbè ho la WIND, ho detto devi chiamare a loro e ti dicono che cosa dovresti fare. E ti danno questi tipo l'IP o tanti dei numeri, no, da configurare per configurare il telefono e poi se lo attacchi alla al casetto poi la si riesce. Sì. Effettivamente bisogna chiamare il centro servizi per andare bene. Ma sono un operatore primario, quindi risaluta il centro servizi e vede un po' di dati di numero. Però è quello, se non c'è connettività dove ti attacchi? E questo è il problema. No, adesso mi sto facendo una cultura sulla chiave capova, no? Dove appunto loro ti danno delle opzioni allucinanti. Oh, lì sì, dice che lì devi pagare un contratto di 190 euro, mi sembra. No, ma ce n'è anche una libera, che praticamente tu cosa fai, no? Ti danno la chiavetta, se ho capito bene, se ho ben compreso, ti danno la chiavetta, poi vai, acquisti una scheda e la ricarichi come stessi ricaricando un telefonino. Ah, così potrebbe funzionare lo stesso così. Sì, perché poi tu, quando ti apri il riquadro, che la chiave è vuota, ti dice di ricaricare, ok? Quindi tu le dai l'enter con il numero segreto della chiave, della scheda prepagata, e quindi puoi avere accesso tranquillamente come se fosse un telefono normale, perché è così che sta funzionando. Io la so diversa. Poi, il fatto del contratto, un contratto fisso, che ti offre vari pacchetti. Sì, infatti lì mi sta dicendo di quello, infatti mi ha detto perché non ti fai quella della Vodafone, della chiavetta? Dice no, ma lì mi sembra che devi avere un contratto e devi pagare 190 euro. No, non è possibile. Scusa, sarebbe una cosa diversa e basta. Comunque guarda che col cellulare un pochino si paga, cioè col cellulare qualche cosa la fai lo stesso. Lei adesso si vuole fare questa della, non so se Timo Vodafone. Praticamente dice che paga 20 euro e puoi navigare molto voi. C'è anche quella 10 euro, yeah. Ma secondo me non conviene, poi non lo so. Ma io, guarda, io sono dello stesso avviso tuo, cioè io prendo un telefonino, mi metto una scheda, 20-30 euro, quando finisce ciccia, tappa e ciccia, no, vorrà dire che non ce ne metto, quando ce l'ho ce li metto su. Io sono del parere che lo paghi con la, io vabbè c'ho la fiscali e quindi cioè paghi un canone al mese, vabbè che è ogni due mesi però. La linea fissa è un'altra cosa, lavori meglio fra DSL e tutte queste cose qui, c'hanno un'altra musica, sono, non c'è niente da fare. Allora gli servono dati, acchiappa, fa, gira, molla, per informazioni, un'enciclopedia, quando i bambini diventano grandi ti scarichi intere enciclopedie, tutto è a vantaggio di chi ha l'utenza DSL. Infatti, ma penso che puoi scaricare anche di più con quello fisso che con quello con il cellulare, che con il cellulare dovresti avere dei mega disponibili solo. Il problema è un altro, il problema della connettività cellulare esiste anche con un altro strumento, no? Che poi è una porcheria, mi è capitato giorni fa da casa veterinario, ha comprato la connettività cellulare, no? Così, 150 euro, ed è una grandissima, mega, galattica porcheria, che schifezza, quel tipo di collegamento lì. In effetti la DSL è il migliore, si è pentito perché non mi deve ascolta, adesso si è, l'ha buttato via proprio ieri mi pare, lo c'ero 3 giorni fa, l'ha buttato via ieri e si è fatto mettere la DSL in casa. infatti mi sembra che l'ho visto felice e contento, perché quando tu li vedi, no, questi che lavorano per dati, banche e cose, li vedi contenti, vuol dire che funzionano bene. Loro lavorano molto col patrono, ormai li ho tutti sgrezzati e li ho tutti quanti messi in condizioni di poter lavorare col personal computer. Poi, e quindi loro lavorano con quelle macchinari là. C'è una linea, se tu fai connettività con una banca non si può testare con dati dove ci sono, specialmente questi veterinari così, dove ci sono aggiornamenti per le medicine, per cose animali, è una cosa seria. E appunto, infatti, quello che dico io, già vabbè, loro le serve giusto così, ma io gli ho detto, siccome da loro c'è il forstrada, io faccio, ti conviene, secondo me paghi 20 euro, sì, al mese, però puoi starci quanto vuoi, lì hai 100 ore, mi sembra, di navigazione e paghi 20 euro, e secondo me non le conviene, poi le tu vedi tu. Non le conviene, no. Perché uno che sta svolgendo un lavoro non sta attaccata che sembra la porta della vigna, no, è lì, collegato, scarichi i dati che ti servono e tira campa. Infatti lei dice, vabbè, perché a volte ci serve che scende il negozio per dire, se lo porta qua perché è portatile, no? E dice, con questo bellino, cosa cavolo, col cellulare, dice, ti attacchi e volano. Invece con la linea che c'hai a casa, le tue intanto ce l'hai sotto casa, ti metti la prolunga e buonanotte. Guarda, io sono sempre dell'avviso che, come si dice, le persone devono fare la miglior scelta nelle offerte notarie telefoniche, perché lì per conto se poi si tratterebbe di rimetterci un pacco di soldi. Ora con Ubis è per tutti così, non è che ne freghino solo uno, infatti loro studiano il modo di fottere il più bene possibile. Allora il loro lavoro non è dare solo la connettività, è fottere con queste tariffe. Come io li odio perché fanno casino il più delle volte, non sono molto chiari. Io per qualcuno sono finito in causa, perché mi contavano 500 ore a posto di 50 ore di navigazione, è stato un gran casino, che ti credi, ho mobilitato anche il direttore delle poste di comunicazione, è stato un bordello nero, per forza, e che vuoi fare lì, è così, è sempre a pagare, come la giri paghi comunque. Eh sì, infatti, ho bianco un attimo che c'è la bambina che sta piangendo, ci sentiamo più tardi, dai. Sì, buon proseguimento, noi ci facciamo diretto in frequenza, vediamo, ciao. Ciao.